È già cominciato da 20 minuti, no, no. È già cominciato? No, no, no, non credo. Siamo già live da 30 secondi. Da Dio. Quando io vuoi. Un sacco di cazzate che ho detto sono registrate. Come sempre. Registrate, sì. Certo. Ok, buonasera e benvenute a Cabaret Voltaire. Io sono Laura e sono una femminista e una studiosa di storia dell'arte. E questo podcast è nato dall'esigenza di confrontarmi con amiche e amici su tematiche che ci riguardano nel nostro quotidiano, cercando di mettere in discussione la tradizione culturale a cui siamo abituate e abituati. E quindi mi sono ispirata proprio agli artisti Dada, che con la loro arte hanno cercato di mettere in discussione, di stravolgere la tradizione a cui erano abituati. E quindi ho scelto di chiamare questo podcast proprio Cabaret Voltaire, che era il luogo dove si incontravano gli artisti Dada a Zurigo a partire dal 1916. Quindi ogni puntata sarà dedicata a una tematica diversa che discuteremo insieme con un tono molto libero e senza giudizio, e sempre con ospiti diversi. Questa sera ho deciso di dedicare la puntata a raccontarvi di Exalge, che è lo spazio grazie al quale questo progetto è possibile, e proprio perché penso che Exalge rispecchi molto i valori e gli intenti soprattutto di questo progetto, e quindi quello di essere uno spazio di innovazione e sperimentazione sociale, e che in qualche modo mette lui stesso in discussione, forse insomma è aperto a una critica della cultura, creando un ambiente comunitario. Infatti spero che questo podcast diventi uno spazio in cui dare voce a una comunità. E quindi con noi questa sera ci sono alcuni dei soci che spero vi racconteranno, insomma attraverso le loro parole spero di riuscire a raccontarvi un po' di questo luogo magico, di questa famiglia meravigliosa di Exalge. E quindi forse chiederei a Giacomo di raccontarci magari un po' quali sono stati gli incentivi, o insomma un po' come è nata questa idea di Exalge. Ah, partiamo proprio così a mille. Io ti posso dire intanto che è un piacere avere questo te e questo progetto tra le nostre mura, perché la radio della nostra associazione nasce proprio per questo tipo di cose, quindi siamo tutti molto contenti. Exalge è difficile da definire. Quando ci hai chiesto un po' di raccontarla ci siamo tutti guardati negli occhi. Perché è mille cose, anzi penso che ci contraddistingua proprio il fatto di non definirci più di tanto, non raccontarci neanche troppo nel dettaglio. Lo facciamo facendo le cose, lo facciamo un po' più con la pratica che con la teoria. Però è un'associazione che è nata da un gruppo di persone che avevano voglia di provare a promuovere a Milano qualcosa di un po' diverso, sia come musica, come cultura, ma anche come modo di abitare la città, quindi intendere lo spazio in una maniera un po' differente, quindi aprire un luogo che fosse attraversato sia da eventi e da cultura, ma anche da socialità e attenzione per l'ambiente, per le piante, per il modo di costruire anche lo spazio stesso, quindi l'autoproduzione, l'artigianalità. Queste qua sono un po', diciamo, le parole chiave che ci hanno guidato in questi anni nella costruzione di quello che siamo. Ognuno di noi penso sia qui alla ricerca di qualcosa anche di diverso e per motivi diversi, però siamo un po' accomunati da questa idea di sperimentare, di provare a cambiare una linea di sviluppo urbano e culturale che non ci rappresenta. E quindi appunto come anche la tua intenzione, io farei parlare un po' tutti quanti per dare una visione di quello che siamo, multiforme, perché alla fine è quella che più penso sia che adatta. Più vi rappresenta, esatto. Certo. E niente, chi di voi vuole parlare? Gio? No, Giovanni? Io sono un attimo oppresso da questo momento di serietà e lascio volentieri il microfono a Abruzzo, per esempio. Eccomi. Ciao Federico, benvenuto. Ciao. Vuoi raccontarci un po' che cosa rappresenta Exalge per te? Va bene, allora, io premetto che non mi sono preparato un discorso perché ho scoperto un'ora fa che avrei parlato e nulla. E premetto che non sono uno che lavora dentro Exalio, ma sono un socio, basta, un frequentatore. E basta. Passavo così fuori dalla cancelletta. E no, e nulla. Ti sei ritrovato qui, in questo bellissimo posto. Esatto. E niente, cioè, come prima diceva Jack, penso che principalmente, almeno per me, rappresenti un po' il luogo di evasione. Cioè, da una Milano che spesso non lo so, non mi piace, non sento troppo mi rappresenti, tanto quanto mi possa rappresentare più o meno questo posto. Poi, al di là del fatto che ci lavorino i miei amici, penso di vedere molta gente che è molto più simile a quello che posso essere poi io. E poi anche, cioè, è un luogo dove puoi far nascere anche molte amicizie, nel senso, perché rivedi proprio parti della tua personalità in altre persone, ecco. E nulla, cioè, questo principalmente rappresenta per me Exalio. E c'è un pezzo musicale che associeresti a questo luogo? Sì, si chiama Sympathique. D'une cage, le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte, comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour, un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, et puis je fume. Je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, et puis je fume. Allora, forse chiederei adesso a Luca, che lavora ed è socio di Exalge, anche di raccontarci un po', forse anche come sei arrivato qui e certamente cosa rappresenta Exalge per te, quali sono gli intenti anche che condividi. Ah, io mi sono indebitato talmente tanto che a un certo punto, per ripagare il mio debito, ho dovuto lavorare anni e anni. Non siamo ancora arrivati a quel punto. No, non è vero. In realtà io ho scoperto il posto quasi per caso. Ho conosciuto subito Giacomo, il nostro presidente che ha parlato poco fa. Pian piano, continuando a frequentare il posto, conoscendo sempre di più le attività e soprattutto le persone che c'erano dietro, mi sono sempre più affezionato, e quando poi è arrivata la proposta di collaborare, di dare una mano, di lavorare, è stata una risposta quasi scontata. E niente, quindi sono arrivato così. E adesso sono 2 anni e mezzo che condivido sventure e piaceri di lavorare qui dentro. Espansionistiche, ragazzo. E ho mire espansionistiche. Entrato nel consiglio di amministrazione. Esatto. Ci prendiamo tutta la città adesso, l'Italia e poi il mondo. E c'è un progetto in particolare che fai o che ti piace? Da settembre ho cominciato con altri soci di Exalgia a portare avanti il progetto di un cineforum che è ancora in una fase, diciamo, un po' grezza per alcune cose. Però poi anche la cosa bella del progetto e di Exalgia in sé per tanti versi, con il crescere dei progetti cresciamo anche noi e facciamo gli aggiustamenti lungo il percorso. Non c'è nessuno che ci dice cosa e come fare, quindi siamo anche liberi di correggere e fare gli aggiustamenti giusti per andare dove vogliamo andare. Certo, e poi soprattutto secondo me sono anche dei progetti che appunto creano molto un senso di unione, no? Di sentirsi parte di qualcosa, almeno per me era stato anche questo venire in Exalgia, sentirmi parte di una famiglia o comunque di una comunità, di un gruppo e poter condividere liberamente un po' il mio modo di essere. Credo che l'associazione abbia questa funzione molto importante di luogo di aggregazione e il Cineforum in parte deve riflettere questa cosa. Esatto. È importante arrivare in un posto in cui ci si sente a proprio agio e quando Federico prima parlava di nuove amicizie, appunto creare contatti, collegamenti e percepire dell'umanità, che sono cose che è difficile, sì, soprattutto in questa a città Milano, infatti. Ogni giorno che passa diventa sempre più difficile, avere un luogo che te lo consente è fondamentale, penso. E c'è un pezzo musicale che associeresti a questo luogo? C'è una faccia di questa associazione che secondo me è molto ben rappresentata da Night di Sergio Caputo. E allora sentiamola. E allora ascoltiamo. L'orchestrina si diverte a massacrare uno standard della dolce Bessie Smith. Mentre al quarto Margherita ho capito che alle 3 altri posti dove andare non ce n'è. È così che mi ritrovo a divagare su chimere, aspirazioni da vivere nell'intrigo della notte in quest'oasi di lamè. A prescindere dai fatti penso a te. Parla più forte, ti telefono da un night. Ho i nervi un po' in disordine e il fegato nei guai. Tiro a stupirti ma non mi riesce più. A barare son più abile anche quando vinci tu. Nel brivido del night, nell'ottica del night, ognuno un segreto nel cuore. Cantante non la smette di storpiare le parole di quel brano di Montan. E che altro posso fare se non mettermi a fumare e godermi il panorama in décolleté. La cassiera ossigenata mi sorride, non ha niente da invidiare a Fernandez. Mi racconta di Parigi, io mi sento abitué, nonostante il suo profumo penso a te. Parla più forte, ti telefono dal night, di nuovo fatto il pieno, non so se capirai. Sai cosa faccio, io domani vengo lì, ti rapisco e andiamo al cinema, che vuoi più di così? Nel brivido del night, nell'ottica del night, ognuno un segreto nel cuore. Tu no. Yuka, una domanda per te prima di salutarti. Ancora, aiuto. Mi chiedevo, ma nel pensare a un progetto per Exalge, no? Come quello del Cineforum, ma come dire, ti poni appunto anche la domanda di come sarai percepito dal pubblico, se, cioè, come dire, il tuo intento parte più da un tuo istinto, da un tuo desiderio di fare qualcosa, o anche da, non dico con piacere, ma indubbiamente andare incontro a delle esigenze del pubblico? E se così fosse, nel Cineforum, che cosa ti ha spinto a cominciare il progetto? Sì. Più il desiderio di fare qualcosa che volevo fare, la passione per quel progetto e la voglia di portarlo in uno spazio che amo e in cui... che posso chiamare anche casa. E, poi, quando parlavo prima di aggiustamenti, lì rientra anche la volontà di andare incontro al pubblico nel momento in cui piano piano capisco e capiamo anche come e cosa fare per rendere l'esperienza il più possibile piacevole, significativa per tutti. Ok, grazie. Grazie a te. Lollo, ciao. Ciao. Lorenz, anzi, scusa. E vuoi raccontarci un po' anche tu cos'è Exalge per te? O insomma, come sei arrivato qui? Diciamo che sono arrivato qui... insomma, perché amici avevano cominciato a venirci e piano piano ci sono finito anche io, e poi alla fine adesso sono 2 anni che, diciamo, sono dentro al progetto. Che cosa vuoi sapere? Voglio sapere cosa, cioè, vorrei, nel senso, perché l'intento è quello di spiegare anche un po' da, cioè, magari raccontare il contesto in cui è nata anche la mia idea e insomma, il progetto di Cabaret Voltaire, quindi cercare di dare uno spettro un po' più ampio a chi ci ascolta di qual è l'ambiente in cui si sviluppa anche l'idea del progetto della radio, e quindi raccontare semplicemente che quando vieni qui, o comunque quando pensi a Exalge, quali sono magari le cose in cui ti rispecchi? Allora, secondo me una delle prime cose che ho notato, prima da solamente da socio e poi anche da lavoratore, è la velocità del posto, cioè, ovvero, nel senso, secondo me è un posto che si impegna ad andare ad una velocità diversa dalla velocità alla quale scorre, diciamo, tutto quello che sta intorno. Questo, secondo me, è una condizione, cioè, necessaria perché uno spazio diventi anche, diciamo, un luogo, un teatro, ecco, dove possano nascere dei legami. E in un'altra maniera lo troverei difficile. Quindi, diciamo, questo sicuramente è stata la prima cosa che ho notato quando ho frequentato il posto per la prima volta. E invece adesso, se dovessi magari dire una cosa alla persona anche che partecipa, ecco, più attivamente anche alla parte più organizzativa del posto, ma direi che secondo me uno dei punti di forza è in generale la pluralità di eventi che vengono proposti, e soprattutto, cioè, il non avere sostanzialmente dei dogmi che ci impediscano di far sì che possano crearsi situazioni anche molto differenti tra loro all'interno dello spazio. Esatto, concordo. Infatti è stato proprio questo il motivo per cui ho scelto di fare questo podcast qui, perché questo sarebbe anche un po' l'intento del mio podcast e delle persone che porterò in radio, quindi di ricreare delle situazioni, di discutere su delle cose senza confini, senza dogmi. Grazie. Prego. E c'è un pezzo che associeresti a Exalge? Ma secondo me c'è una canzone che mi piace pensare di poter associare ad Alge, che si chiama Il Disertore di Ivano Fossati ed è la traduzione di una poesia di Vian, e soprattutto, cioè è un pezzo contro la guerra, che sicuramente un tema attuale, attualissimo. Va bene, ascoltiamolo. In piena facoltà, egregio presidente, le scrivo la presente che spero leggerà. La cartolina qui mi dice terra terra di andare a far la guerra quest'altro lunedì. Ma io non sono qui, egregio presidente, per ammazzar la gente più o meno come me. Io non ce l'ho con lei, sia detto per inciso, ma sento che ho deciso e che diserterò. Ho avuto solo guai da quando sono nato e i figli che ho allevato han pianto insieme a me. Mia mamma e mio papà ormai son sottoterra e a loro della guerra non gliene fregherà. Quando ero in prigionia qualcuno m'ha rubato mia moglie e il mio passato, la mia migliore età. Domani mi alzerò e chiuderò la porta sulla stagione morta e mi incamminerò. Vivrò di carità sulle strade di Spagna, di Francia e di Bretagna e a tutti griderò di non partire più e di non obbedire per andare a morire per non importa chi. Per cui se servirà del sangue ad ogni costo andate a dare il vostro se vi divertirà. E dica pure ai suoi se vengono a cercarmi che possono spararmi, io armi non ne ho. Io volevo fare prima una domanda serissima di inchiesta, Giovanni. Buonasera. Questa ciao Giovanni, il mio fonico. Oh, allora, buttiamola un po' in cacciara che qua. Giovanni, ho una domanda di inchiesta per te. 174 diviso 13. 13 quanto fa? No, ho due domande. Secondo me 13. Questa era la prima. Non lo so, non ho controllato. Te lo chiedo perché non lo so io per prima. 3 per 3 può fare 13. No, 3 per 3 non fa 13. 15 qualcosa. Di più. 17. Quanto dal pubblico ci dicono? 13,384. Ah, ragione c'era, lui. C'era, è forte, raga, c'era. È forte. Io volevo chiederti così, Lampo, in cosa può e deve migliorare ancora Xalge? Allora, sicuramente un tasto solo per mutare tutti i microfoni. Ok, grazie, era poi, la risposta che volevo. Anche Coli lo dice sempre, i fader al posto delle manopoline. Però sono così vintage. Ma anch'io preferisco a livello tono, estetico, no? Però col fader fai così e hai tirato giù. Io sono per le manopoline. Cosa ne pensi della pesca del gambero invece? Dipende. Dipende. Se vai tu con gli stuzzicadenti a prenderli uno a uno. Ok. Sì. Va bene. Se no, ho chiuso, vostro onore. Ok. Gio, vuoi dirci anche tu che cos'è Xalge per te? Penso, anche se è un pensiero in divenire, che sia comunità, che è un termine molto vago e difficile, ma comunità. Cioè, idealmente è un po' un modo di rivoluzionare la città e quindi il sistema dal suo interno. Concretamente, ma anche idealmente, è comunità. Sì, sono d'accordo. Quindi un modo di abitare diverso, in cui si esce un po' dai canoni della Milano metropolitana. Esatto. Meno male che c'è Xalge. E quindi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, spero che resterete con noi per le prossime puntate e che verrete a trovarci in questo luogo splendido. Quando sono le prossime puntate? Aprile. È tutto un aprile, podcast tutti mensile. I giorni di aprile, tutti i giorni di aprile sentirete la mia voce, la mia sensualissima voce. Va bene, su queste note è un casino. No, scusate, è una podcast con cadenza mensile e se rimarrete tuned scoprirete qual è il tema e quali saranno le ospiti e gli ospiti della prossima puntata. Chiuderei con un mio pezzo. Ma nel senso che l'hai scritto e composto? Sì. Okay. Io ho una doppia identità e sono anche un po' Tracy Chapman. E quindi magari, guarda, che va andar male, magari. Ho conosciuto gente a cui è andata peggio. È vero.